Eccoci qua in lieve ritardo per permettere l'intervista appena finita della trasmissione precedente Allegro con Fuoco. Dunque 21:14, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Prova tecnica di trasmissione avanti sino alle 22:30, qualche minutino magari lo prenderemo anche a 25 o'clock. www.ondarossa.info per chi volesse usufruire del nostro streaming, 0649 1750, il nostro contatto telefonico storico. Salutiamo i vari fedelissimi a partire da Maia della Sardegna, Lucky Wake qui da Roma, Antonio Zoviet da Firenze, il buon Gianluca Becuzzi sempre qui da Roma. Un altro pezzo della Sardegna, Nicola Locci, Enrico Cerrato, alias Petrolio, Fabiola, naturalmente Raffaele Pezzella in quel di Napoli. E quindi velocemente iniziamo e lo facciamo con un lavoro di Akamasots, diviso in due parti. La prima è Believe, l'abbiamo apprezzata alquanto in City Disorder. Ma la caratteristica di questo disco è che è composto appunto da due CD. E il secondo CD si chiama Allerheiligen Blut, in probabile fiammingo. Un album che in realtà tira fuori l'anima più sperimentale, fondamentalmente dark ambient, di Herman Claffels. Un disco diviso in 8 capitoli, come scritto qui, e quindi noi ci ascoltiamo il capitolo numero 1, chapter number 1. Eccolo qua, Akamasots. Dunque, Allerheiligen Blood, il disco che accompagna I Believe, ultima uscita per Akamasoz di Herman Klaffholz. Un bellissimo packaging, una 5 molto molto bello, che esce per la Hans Productions di Udo Wiesemann. Giustamente viene sottolineato quasi il tratto mistico di questo brano, giacché poi Herman Klaffholz è anche uno studioso e un appassionato di religioni altre. Non peraltro il logo di Akamasoz, questo grande pipistrello alato, è proprio un simbolo tipico delle culture religiose del Centro America. Una traccia dagli umori decisamente gotici e rarefatti, Chapter Number One, e tutti i restanti 7 capitoli più o meno si snodano attraverso questi suoni. Benvenuto anche al Fulvio Biondo di Solar Lodge, fedelissimo anche lui. E non mi sorprende che un altro esperto che risponde al nome di Stefano Di Serio, Like Wake, apprezzi queste note, perché forse in fondo c'è anche una somiglianza con le sue creazioni. Adesso invece andiamo a ascoltare due nuove tracce da questo The Light is Leaving Us All, ultimo splendido lavoro di Current 93, naturalmente capitanati da David Tibet. Punto di partenza è il neofolk, ma nell'album ci sono momenti di sperimentazione, ma anche di psichedelia deviata. Una classica materia dove David Tibet si muove a suo agio. Your Future Cartoon e The Postman is Singing, le tue tracce per questa sera. 1,000 witches pick and mix, 1,000 witches spinning tops, 1,000 witches bright as night, 1,000 witches gobbling light. The fire is burning inside you, it cannot leave and burns and smiles. In that year when fishes sings, in that year when chariots pass, in that moon where sailors drown, the night was flower long, and on the grass the kingdom sleeps. Aleph, Beth and Gimel, you're on your way with skip and slip, and the storm is before you, and the breath is behind you, and blessed is the Lord, and harsh is his word, and under dusk the children soar, whilst the birds are sadly singing, the children soar of softer smoke. The bells ring in the mist, and in your heart the nihil hides, and in your heart the door is locked, the light is leaving us all. Dalit donkeys on the track, and the racks of meat are piled, and the stink is singing, the summer sun as bright as buttons, the ocular moon as sweet as sleet, and your future cartoon is as soft as the tarot. The solar legion's at your back, Stella call me with your dead hand, Helen stand, don't collapse, Marjorie, your brother's hands are dark, the farm is boarded against the storm, but in the spaces in between, wood and brick and wood, the squeak awaits the bus's mast. I have heard she slept with him, I have heard she knew him night, a canopy of moons collapses, the light is leaving us all, and the birds are sweetly singing, 1,000 horses sing and march, the light is leaving us all, whilst the birds are sweetly singing. home. The Lord is on the storm. He is the storm. And deep in soft sea, the cats arise. He turned to me and said, I know your name. And then you said, I go there, and I walk here, and I walk there. See the cat on your lap, she knows your name, and purring gorgeously, she sees your shame. Butter and honey in shoals of angels circle my eyes and sweetly sing that the light is leaving us all. Dark arrows dart and bark. Horses are high, stars are firing, her eyelids close, for the light is leaving us all, and the birds are softly falling, and the light is leaving us all. Face, and the postman is singing, and the sweeper is singing. The sun is not shining, her eyes are in stars. But down in the train, the light is leaving us all. So bind your head, then bite your lip. Slip into sleep and slip on your trip on the way to your house and your throne and your bone. But the light has left your eyes. The seahorse is drowning. The darkness starts songbird. The songbirds are singing. The robin is singing. The toy is groaning in the dark. The spirit is singing. So cozy in bed. When you turn out your light, how's Baal in your bedroom? When you turn out your light, the lights fold into centuries. And the golden calf yawns. The light is leaving you all. And I picked flowers and waited for the rain to sink into me. So excuse my saying, I have seen that you're lying under this moon. I have to spell out the truth. I can tell the light has left you. The sweet songbirds babble on over Babel and the gates of gods. Their light has left them all. There are thousands. effettivamente maestria assoluta espressa in questo brano, in questo The Postman in Singing, dall'ultimo lavoro di Current 93. No, Current 93, per essere più precisi ed inglesi. The light is leaving us all. Written in bars and foretold in the stars. La magica voce di David Tibbet e in questo brano anche lo splendido violino di Aloma Ruiz Boada. Ospiti importanti in questo lavoro su tutti Andrew Lilis di Nars With Wound. Current 93, Current 93 in attività dalla metà degli anni 80 con gli inizi eso-industriali, come si suol dire, poi l'avvicinarsi al neofolk e poi l'alternanza di brani caratterizzati ora da un pianismo notturno, in altre occasioni da rock psichedelico. Ed effettivamente anche in questo caso la spettrale psichedelia del Postman Singing ci rimanda anche in alcuni episodi belli del passato. All on your hands, do you like the hair golden? Possibly not. Lasciamo Current 93, con la promessa ovviamente di risentirci anche il prossimo mercoledì, che sarà 26 dicembre, un giorno particolare, ma noi trasmetteremo ugualmente, sempre a partire dalle ore 21, nonostante il giorno cosiddetto di festa. Veniamo a Raffaele Pezzella e la sua interessantissima compilation dedicata al Libano, che ormai stiamo sentendo ed apprezzando da molto molto tempo. D'altronde è un doppio CD e stiamo esaminando quello soltanto reperibile in via digitale su Anespress Sounds Group profilo Bandcamp, e questa sera tocca Yubna Sabah, una lunga traccia dagli umori contrastanti, una traccia che si chiama Hubut. Ce l'ascoltiamo dunque, Yubna Sabah. لنتأمل الآن هذه القمم السامية في السمو إلى العالي Yumna Sabah, questo era Hubut, artista compositore libanese e quindi estratto da Lebanon Music Survey Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, questo eccellente compendio ideato da Raffaele Pezzella attraverso la sua Nesplay Sounds label. Per chi volesse andare anche a conoscere meglio questo artista, c'è anche un relativo profilo SoundCloud dove c'è una descrizione completa anche delle tante collaborazioni che Yumna Sabah ha svolto in passato. Una traccia caratterizzata da questa unione tra antico e presente, un inizio con questo tramestio in sottofondo, con questo qualcuno che probabilmente scende delle scale, e poi l'entrata di questa bellissima voce medio orientale, minimale ma affascinante allo stesso tempo, come viene detto dal buon Antonio giustamente. E quindi ringraziamo di nuovo il Raffaele Pezzella. Sentite l'estrema varietà di questa compilation, la traccia che è partita Aurora, che si sviluppa in maniera già diversa rispetto a quelle precedenti. E vi preannuncio che prossimamente ci ascolteremo anche un album molto, molto particolare dal nome Suyud, di un ensemble indonesiano dal nome Senyawa, che ho conosciuto anche grazie al buon Gianluca Becuzzi, un album che ci ascolteremo assai presto da queste frequenze. Bene, noi andiamo avanti dal Libano, ce ne andiamo in Scandinavia, ce ne andiamo esattamente in Svezia, approfittando di questo album dal nome Tisnad e Efterkansamet di Peter Bjargo Andersson, Pettersson. In Svezia si sa, molti si chiamano Andersson e altrettanti Pettersson, e quindi ci si può confondere. E d'altronde esiste anche il Peter Andersson di Raison Detre e anche Lina Baby Doll di Deutsche Nepal. Come molti sapranno, il vero nome è proprio Peter Andersson. Tornando dunque a questo album di Peter Bjargo, ci ascoltiamo questa traccia dal nome Oblique. Peter Bjargo Pettersson, già membro e fondatore degli Arcana. Gli Arcana stessi hanno seguito in qualche modo anche le orme dei Deccan Dance, sia nella fase più gothic ma anche nelle devianze etniche che hanno e che caratterizzano ancora, come tutti sapranno, anche l'ultimo lavoro dei Deccan Dance. Come Peter Bjargo, in maniera solista invece vengono battuti nuovi sentieri. Qui c'è qualcosa di glitches, di elettronica spezzata, di IDM, cosa inusuale per Peter Bjargo, e quindi apprezziamo questo lavoro di ricerca di questo musicista svedese. Tystnad efter Kamsamet, in svedese questo titolo. La traccia in questione si chiamava Oblique. 21:58, quindi già siamo intorno alle 22. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Per quanto riguarda la possibilità di connettersi attraverso il nostro streaming, lo si può fare connettendosi su www.ondarossa.info. Voglio salutare Ottavia, nel caso sia in ascolto, che è stata colonna di questa radio. E di nuovo Nicola Locci con Stigmate, suo progetto interessante, come interessantissimo è anche Omicidio di Antonio Zovet, due progetti che abbiamo apprezzato nel passato e speriamo poi che entrambi ci donino delle nuove opere. Andiamo adesso in Germania e lo facciamo con Stefan Alt, fondatore dell'Antezen, che questa volta si cimenta come musicista. Lo fa attraverso Salt e lo fa anche bene, devo dire, come abbiamo già apprezzato la scorsa settimana. Intanto risalutiamo Ottavia di nuovo. Con Invisible, questo secondo lavoro, chissà se come dal vivo è stato aiutato anche da Anthony Knilpert di Torofon, perché una impronta più o meno noise c'è in questo album e lo si può anche apprezzare in questa Beneath the Sun e la successiva Inhale.